Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Caro direttore, che problema c'è ad andare in pensione a 65 anni? Per me e per lei nessuno. Io faccio un lavoro che mi piace, lei immagino pure. Non c'è nessun problema per la maggior parte della classe dirigente, per tutti i politici e per chi fa un lavoro intellettuale. Il problema invece c'è, è grave, per tutti coloro che fanno un lavoro noiosissimo, ripetitivo, usurante, per tutti gli operai stipendiati e specialmente per chi viene licenziato dopo una certa età e non trova più lavoro. E deve aspettare fino a 65 anni senza percepire più un becco di un quattrino prima di prendere la pensione. Un governo serio prima fa gli ammortizzatori sociali e poi legifera per le donne in pensione a 65 anni. Quanta gente perde il lavoro senza la minima cassa integrazione, non riesce a trovarne un altro ed è disperata. Possibile che non si riesca a capire che ci sono milioni di persone che vivono in realtà completamente diverse da quelle in cui vivono i politici, gli intellettuali e, mi permetta, anche voi giornalisti. Mario. Perché è sempre difficile fare qualsiasi cosa in Italia? L'innalzamento dell'età pensionabile non si può fare. In altri paesi sì, ma qui no. Il nucleare non si può fare. In Francia hanno 54 centrali e nessuno dice nulla. Qui appena ne parli, apriti cielo. Grazie. Marco. Sembra che l'installazione del controllo digitale nell'assemblea parlamentare disturbi qualcuno che evidentemente preferirebbe il solito andazzo da pianista che comporta non solo la presenza al voto, ma credo anche il gettone di presenza, che diventa così un ulteriore illecito, quest'ultimo di natura pecuniaria, a tutto danno dei cittadini. Ebbene, propongo al presidente Fini di emettere un'ordinanza affinché chi non si sottopone al rilevamento delle impronte venga considerato da subito semplicemente assente, con tutte le conseguenze del caso. Fabio. Caro direttore, qualche giorno fa ho sentito l'intervento dell'onorevole Guzzanti, o forse era il suo vicino di posto alla Camera, che esponeva il suo rifiuto a rilasciare le impronte digitali, motivandolo con il fatto di sentirsi un delinquente a dover dare le sue impronte. Premesso che il sistema certamente ridicolizza un po' tutto il Parlamento, ma tant'è, probabilmente in Italia serve anche questo, forse l'indole italiana di fare i furbetti non poteva non contagiare i diversi parlamentari anche in questo. Se il sistema c'è, forse ne abbiamo davvero bisogno. E visto che il sistema c'è, ed è stato pure pagato parecchio, non vedo cosa ci sia di male a dare le proprie impronte per utilizzare questo servizio. Io ho fatto il servizio militare quando ancora c'era l'obbligo di leva, e le assicuro che nessuno si è mai sentito delinquente a dover rilasciare le proprie impronte digitali facendo un servizio di cui beneficiava tutto il paese. Franco. Sono un vostro radioascoltatore molto partecipe alle vostre trasmissioni, anche se con molta difficoltà, perché sono un piccolo e onesto imprenditore, il quale, se non si sbriga a fare bene il suo lavoro, la sera non mangia, al contrario di troppe persone in Italia. Ho ascoltato una puntata di Un abuso al giorno, in cui si parla di un caso tipico della sanità italiana. Un paziente che deve aspettare 3 anni per una operazione, ma se pagasse diverse migliaia di euro per quello stesso intervento, e sottolineo nella stessa struttura, il tutto si risolverebbe in pochi giorni. Scrivo per evidenziare il fatto che di questo tipo di esborso da parte degli italiani si parla molto a tutti i livelli. Ci siamo preoccupati giustamente dell'aumento del pane e della pasta, ma io non ho visto fare un'indagine seria su quanto spendono gli italiani per la sanità ogni giorno con un servizio sanitario nazionale che si definisce libero e gratuito per tutti. Per un semplice esame del sangue si devono spendere 80 euro, per un'ecografia 100 euro, senza parlare degli interventi. Se si sommassero queste cifre, credo si otterrebbe una cifra che farebbe spavento. E un intervento deciso e serio di riduzione di questa cifra credo che si sentirebbe molto nelle tasche degli italiani. Purtroppo, questo non avverrà mai. Mi piacerebbe che la vostra radio, che per me è come la mia famiglia, attuasse una lotta ancora più incisiva e non come avviene spesso. Ad esempio, vi è stato un giornale che si era alzato la mattina ed aveva attuato una campagna per l'abolizione delle province attivando diversi mezzi, grandi titoloni, fax, mail, eccetera. Ebbene, di quella cosa non rimane traccia. Tra un po' Quello stesso giornale farà lo stesso per un'altra cosa e tra 20 anni staremo a parlare delle stesse cose come negli ultimi 20 e non cambierà niente. Distinti saluti da un vostro radioascoltatore affezionato. Cesare. Gentile direttore, io abito e lavoro in Sudan, più precisamente a Khartoum. Non voglio entrare nel merito se il presidente del Sudan sia o meno colpevole di qualcosa. Non sta a me e non ho neanche gli elementi per poter giudicare. Ma mi chiedo, lei pensa che questa bella trovata del mandato di arresto ordinato dalla Corte Penale Internazionale per il presidente sudanese in merito alle stragi nel Darfur giovi al paese Sudan e a quelle persone che hanno sofferto, soffrono e soffriranno ancora di più? Quel mandato di arresto, a mio modesto parere, sembra come un bidone di benzina versato in un incendio. Non sarà piuttosto che il Sudan è un paese dalle immense risorse e fa gola a molti? Non sarà che il fatto di aver preferito i cinesi ai soliti americani come partner stranieri per lo sfruttamento del suolo abbia accelerato questa bella trovata? Per arrestare il presidente del Sudan vedo solo due strade. La prima è una guerra diretta di americani e suoi alleati, che scatenerebbe arabi, cinesi e russi. Dall'altra, un colpo di Stato dall'interno per il cambio del presidente. E poi, crede veramente che si consegni o che venga consegnato? Un'ultima osservazione. Ma se un qualsiasi soldato americano risponde solo a un tribunale americano, perché un presidente di uno Stato africano deve rispondere ad un tribunale straniero? Cordiali saluti, Livio. Cara Radio 24, vorrei esprimere la mia opinione in merito alla proposta di Franceschini relativa all'indennità di disoccupazione per chi perde il lavoro e non ha altre garanzie come la cassa integrazione. Sono fermamente contrario alla proposta così come concepita, perché penso che qualsiasi forma di assistenzialismo vada bandita. La storia dimostra che alla fine è sempre controproducente. Io sono un lavoratore autonomo che inizia a lavorare spesso prima delle 6 e termina ben oltre le 19. Mi spiega per quale motivo io devo contribuire a fondo perduto per fornire un sussidio a chi potrà starsene tranquillamente a casa senza fare nulla o, peggio, potrà utilizzare il tempo libero per svolgere mansioni in nero? Mi piace essere pragmatico. Se è vero che deve esserci un aiuto concreto in questo momento verso queste persone da parte di chi, come me, è più fortunato, è altrettanto vero che non può essere fatto in questi termini. Visto che lo Stato è disposto a fornire uno stipendio quasi pieno a persone perché stiano a casa senza fare nulla, allora perché non assumerle in modo temporaneo, per esempio con i tanto bistrattati contratti a progetto, perché svolgano mansioni effettivamente utili alla società? Se ne guadagna tutti. La società, perché otterrebbe un servizio in cambio dei soldi dati. Gli interessati, perché si sentirebbero utili e meno precari di quanto sono ora, guadagnando qualcosa in più del semplice sussidio. Dato che per professione sono abituato ad essere concreto, faccio alcuni esempi. Nel mio piccolo comune abbiamo la necessità di svolgere alcuni lavori di ripristino o manutenzione delle strutture pubbliche. Ridipingere l'asilo e le scuole, lavori per la messa in sicurezza e l'eliminazione di barriere architettoniche, la sistemazione dei giardini pubblici, la pulizia degli argini dei torrenti, eccetera. Visto che fra le persone che potenzialmente potrebbero usufruire del sussidio vi sono parecchi ex lavoratori del settore edile, perché non li si sfrutta per questi lavori? Per i mezzi e i materiali necessari si possono fare accordi con le imprese di costruzione con mutuo vantaggio. Se proprio una figura professionale è difficilmente impiegabile in mansioni di pubblica utilità, si può sempre obbligare la persona ad eseguire corsi di formazione professionale utili per un successivo reinserimento nel mondo del lavoro. Insomma, vi sono tante possibilità. L'importante, secondo me, è non dare questi sussidi a pioggia e a fondo perduto. Grazie, Roberto. In Italia manca pragmatismo nella gestione della sicurezza. C'è solo una rincorsa al basso istinto forcaiolo latente nell'animo degli italiani. Le ultime riforme serie sulla giustizia che io ricordi sono quelle di matrice socialista, osteggiate dalla magistratura, e la creazione della Procura Nazionale Antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia che, di fatto, hanno portato ad infliggere duri colpi alla mafia. Giovanni. Da buoni italiani ci lamentiamo di tutto e di tutti, perché effettivamente tante, troppe cose non funzionano. Ma l'equazione è semplice e il risultato è che noi ci lamentiamo di noi stessi. Finché tutti quanti non accetteremo il fatto che il nostro modo di agire, di essere, di comportarci è direttamente o indirettamente la causa della nostra situazione, nulla cambierà. Essere di destra o di sinistra non comporta alcuna differenza. Cominciamo ad aver rispetto per lo spazio che viviamo, dalle cose più semplici, dal non buttare la carta per terra all'allacciare le cinture di sicurezza, dallo smettere di nasconderci sotto gli errori degli altri all'ammettere anche le nostre mancanze, fino a capire che l'ordine e la civiltà non devono fermarsi solo entro le nostre quattro mura. Non c'è molto altro da dire. I paesi che ci circondano lo fanno già da un pezzo. Noi cosa aspettiamo? Jacopo. Caro direttore, da ascoltatrice fedele da anni, posso chiedere un favore? Potete programmare una giornata in cui, a parte le trasmissioni canoniche, Focus Economia, Che Borsa Fa, non si parli della crisi? Tutti siamo preoccupati, ma la vita continua e difatti continuiamo a vivere, ad amarci, ad odiarci, a studiare, a lavorare, a soffrire, a morire e a nascere. Non stiamo seduti aspettando la fine del mondo. Se proprio si vuole parlare della crisi, lo si faccia in modo intelligente. Perché una radio intelligente come la vostra non mette in cantiere un programma istruttivo su vita e morte di un titolo tossico, oppure ascesa e caduta di una polizza index linked? Almeno, pur deprimendoci, impareremmo qualcosa di sensato e non sentiremmo solo geremia di indistinte su percentuali negative. Laura. Cara Laura, si ricorda la figura di Don Ferrante nei Promessi Sposi? Quell'intellettuale del Seicento che stava tranquillo perché aveva dimostrato razionalmente che la peste non esisteva. Scrive infatti Manzoni: «In rerum natura non ci sono che due generi di cose, le sostanze e accidenti. E se io provo che il contagio non può essere né l'uno né l'altro, avrò provato che non esiste, che è una chimera». Is Fretus, vale a dire su questi bei fondamenti, non prese nessuna precauzione contro la peste. Gli s'attaccò, andò a letto, a morire come un eroe del Metastasio, prendendosela con le stelle. Fino a qui, in Manzoni. È vero quanto dice lei, noi continuiamo a vivere, a lavorare, purtroppo non tutti, a nascere e a morire. Non dobbiamo però chiudere gli occhi di fronte alla crisi finanziaria, ma non dobbiamo nemmeno sottolineare nella crisi solo gli aspetti che preoccupano o peggio, che angosciano. Continueremo nella nostra radio a parlare di titoli tossici e degli andamenti di borsa, ma continueremo a farlo senza forzare i toni e senza assurdi compiacimenti. Lei ha ragione, la cosa più importante è capire, affrontare in modo intelligente e senza pregiudizi ideologici quanto sta accadendo. Il mercato e la finanza devono tornare ad essere degli strumenti per aiutare la crescita della società. La fine del mondo non arriverà, ne siamo certi, ma dipende da tutti noi tenere gli occhi aperti e ricostruire la fiducia. Altrimenti finiremo come Don Ferrante, vittime di una crisi che ci eravamo illusi che non ci potesse colpire. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.